Salvadanaio. Buongiorno da Roberta Pellegata e bentrovati a un nuovo appuntamento con Salvadanaio per questa settimana in mia compagnia in attesa del ritorno di Deborah Rosciani. Sono le 12:16 minuti di lunedì 13 giugno ed è il momento di parlare di università. Le scuole sono finite e diversi studenti sono alle prese, oltre con gli esami di maturità, anche con la non semplice scelta della facoltà universitaria. Momento delicato, strategico per il percorso formativo e soprattutto in vista della vita professionale di ognuno. Insomma, io non voglio dire che il futuro dipende dalla scelta universitaria, però di sicuro la laurea giusta agevola e aiuta non poco nella vita. Dunque oggi forniremo una bussola ai giovani e daremo anche una mano ai loro genitori alle prese con il sostegno di questo percorso universitario. Far studiare i figli costa e si sa, questo non è periodo di vacche grasse, allora come scegliere un corso di studi che esalti le capacità dei nostri figli e che non penalizzi il bilancio familiare. Ne parleremo prendendo spunto dalla guida del Sole 24 ore all'università che trovate oggi in edicola gratuitamente con il quotidiano. E in studio con me c'è Francesca Barbieri, collega del Sole 24 ore, una delle curatrici di questa guida. Ben trovata. Buongiorno a tutti. In linea abbiamo Luciano De Vico, dottore commercialista ed esperto in materia fiscale per il Sole 24 ore, che ha scritto anche su questa guida in merito appunto alle detrazioni e agli sgravi di cui si può godere per lo studio dei figli. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Ed è con noi anche Andrea Cammelli, direttore di Alma Laurea. Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Prima di sentire i nostri ospiti, la nostra scheda. Iscriversi all'università è un vero e proprio investimento di tempo, talento ed energie per gli studenti che affrontano il corso di studi, economico per chi li sostiene in questo percorso. Tutti i motivi questi che rendono sempre più delicata e importante la scelta dell'indirizzo più adatto agli obiettivi professionali che si vogliono raggiungere. Con la scelta dell'università, i giovani cercano di coniugare sogni nel cassetto e prospettive di lavoro concrete. E prendendo questa decisione, non possono non tenere conto anche delle tante spese da sostenere nel corso degli anni di studio. A fare la differenza può essere in primo luogo la scelta dell'ateneo. Mantenere uno studente fuori casa rischia di diventare un lusso che solo poche famiglie si possono permettere. Il problema più evidente è senza dubbio rappresentato dall'affitto, le cui cifre astronomiche, soprattutto nelle grandi città, spingono ad optare per gli alloggi universitari, purtroppo non molti, o per una stanza singola. Oltre all'alloggio, si devono poi aggiungere le spese per le tasse universitarie, calcolate su parametri differenti in base alle diverse città, quelle per i libri, per i pasti e per i trasporti pubblici. Una boccata d'ossigeno può arrivare dalla possibilità di detrarre alcune di queste voci dall'IRPEF, anche se l'opportunità migliore per non gravare totalmente sulle tasche dei genitori resta quella di ottenere una borsa di studio o un'altra forma di prestito creato appositamente per gli studenti. Possibilità a cui non è però sempre facile avere accesso, visto anche l'aumentare delle spese formative che in molti casi vanno ad aggiungersi al percorso tradizionale. Dai corsi di formazione integrativi, ai master, alle esperienze all'estero. Allora, Francesca Barbieri, nella guida che troviamo oggi in edicola con il Sole 24 ore si toccano tutti questi punti e si segnalano anche le novità. Certo, allora, innanzitutto, come dire, continua il fenomeno di contrazione e di razionalizzazione del numero dei corsi. E infatti quest'anno saranno circa 4.600 corsi, ma ci sono alcune aree che comunque continuano a crescere. Queste aree sono medicina e anche economia, che diciamo catturano l'attenzione del maggior numero di studenti, mentre per quanto riguarda le aree, diciamo, dell'area umanistica, ma anche ingegneria, hanno comunque un calo. La vera novità riguarda quest'anno le facoltà a numero chiuso, perché cambia la struttura del test, cioè per le facoltà appunto di medicina, architettura, le professioni sanitarie, diciamo la prima parte del test non vedrà più i quesiti di cultura generale che l'anno scorso sono stati, come dire, oggetto di polemiche, ma ci sarà spazio per quesiti di carattere logico-deduttivo. E poi ci saranno ovviamente i vari quesiti che riguardano le competenze specifiche di ciascuna di queste facoltà. E tutte novità che comunque saranno ufficializzate a fine mese, con infatti atteso un decreto del Ministero dell'Università che spiegherà nel dettaglio come saranno articolate le prove del numero chiuso. Quindi una bussola per le facoltà universitarie, per i test d'ammissione, però nella guida si parla anche di cose pratiche. Certo, nella guida sono, oltre appunto ad affrontare per ciascuna area disciplinare quali sono, diciamo, le opportunità di lavoro, quali sono le richieste delle imprese che, come dire, danno maggiore spendibilità al titolo di studio, quindi vengono indicati percorsi da seguire per specializzarsi meglio, per poter poi, una volta terminato il percorso, trovare con più facilità lavoro. Ci sono indicazioni che riguardano, diciamo, indicazioni di carattere generale che possono riguardare la scelta dell'alloggio, la richiesta di borse di studio, la scelta di percorsi internazionali. E caccia quindi l'affitto giusto, leggo nel quotidiano, e poi approfondiremo anche con Luciano, certo, De Vico. Perché appunto per quanto riguarda gli affitti per gli studenti è chiaro, è uno dei problemi principali, la scelta dell'affitto, quindi i posti nelle residenze universitarie sono pochi. Però insomma bisogna dare anche indicazioni sul fatto che ci sono delle formule ad hoc per gli studenti che consentono di strappare dei canoni più bassi rispetto a quelli di mercato. Approfondiremo questi aspetti nel corso della trasmissione, come sempre rispondendo alle vostre domande in diretta, quindi potete cominciare a prenotarvi all'800 24 00 24. Questo è il numero per le telefonate, numero verde, poi c'è un numero per gli sms 349 238 6666. E allora voglio leggere un messaggio che è già arrivato. Un ascoltatore dice: ho due lauree, penso di avere quelle giuste, ma non mi aiutano nella vita, puntini puntini, non dite sciocchezze, diciamo così. Ecco, su questo vorrei coinvolgere subito il professor Cammelli di Alma Laurea, perché lei si occupa proprio di creare sinergie tra il mondo dell'università e quello del lavoro, di agevolare i contatti, di monitorare la situazione. E allora ci dica, ma conviene sempre laurearsi in Italia? Perché ci sono diversi giovani che, vedendo gli amici o parenti più grandi che sono sempre precari, qualcuno disoccupato, qualcun altro è occupato ma con mansioni che non corrispondono, diciamo, al curriculum e alla preparazione, e si scoraggiano. Ecco, bisognerebbe vincere questo, dico, scoraggiamento tenendo conto di un fatto inconfutabile che ci viene confermato sia dall'OCSE, l'organismo internazionale dei paesi più avanzati, che dall'Istat. Per quanto siano complesse la situazione in Italia dal punto di vista occupazionale, il laureato ancora oggi lavora di più e guadagna di più di quanto non accada a chi si è fermato a livello di scuola, dico, secondaria superiore. E quindi un investimento in istruzione, francamente, resta un investimento importante, resta un investimento importante per tutta la vita. È chiaro che scegliere una facoltà giusta è molto, dico, importante, ma l'importante è continuare soprattutto a scegliere un percorso di studi investendovi con rigore, con passione, con curiosità e senza puntare, dico, a scorciatoie una facoltà verso la quale ci si sente portati. Ho la sensazione che quando il ragazzo uscirà, oggi fa una scelta che lo porterà sul mercato del lavoro, se va bene, fra 4 anni, per coloro che si fermano a primo livello, quelli che continueranno usciranno fra 5 anni, fra 6 anni. Ora, francamente, prevedere fra 6 anni quale sarà il mercato del lavoro in Italia diventa un'operazione difficile per tutti. Quindi non si può azzardare qualche anticipazione, secondo lei? Sono alcuni settori nei quali sappiamo che il paese è più in ritardo, penso in particolare al settore tecnologico, scientifici, nei quali sicuramente il paese è in ritardo rispetto agli altri paesi più avanzati e nei quali chi ha la vocazione di investire su questo terreno sarebbe bene che ci si buttasse con passione, come dicevo precedentemente. Anche oggi questi sono i settori nei quali noi rileviamo nelle indagini annuali che facciamo un tasso di occupazione più elevato rispetto ad altre facoltà e che quindi meritano sicuramente di essere frequentati di più dai nostri ragazzi. Teniamo conto di un aspetto che i ragazzi non conoscono, di solito non lo sanno neanche le loro famiglie. Abbiamo messo in evidenza che oggi in Italia 75 laureati su 100 portano a casa la laurea per la prima volta. Quindi è vero le cose che dicevate all'inizio, che aiutare anche le famiglie a scegliere diventa importante, tanto più visto che la gran parte di loro naturalmente non è nelle condizioni di offrire delle indicazioni specifiche di conoscenza diretta. Ecco, su questo terreno bisogna dire appunto che investire è un investimento sicuramente, è una scelta sicuramente giusta, tanto più in un paese che ha perso negli ultimi 25 anni una parte consistente dei propri giovani, quindi del proprio futuro. per via del calo demografico l'Italia ha perso negli ultimi 25 anni quasi il 40% dei propri giovani lico-19enni. Quindi se anche oggi il giovane, è vero, riscontra difficoltà, non c'è dubbio, non possiamo riconasconderlo ed è un settore sul quale occorre investire di più. Noi insistiamo molto che nel settore dell'istruzione terziaria e della ricerca in particolare, che è il fattore fondamentale per lo sviluppo del paese, quindi per la capacità di dare di lavoro, il paese deve investire di più. Sappiamo tutti che siamo in una situazione complicatissima, dal punto di vista economico e finanziario difficilissima, ma bisogna evitare di tagliare anche sulle sementi, cioè su quello che riguarda il futuro del paese. Professor Cammelli, so che lei non potrà restare con noi tutta la puntata, quindi non potremo rispondere ad alcune domande che vedrebbero lei, ecco, come esperto, ma abbiamo davvero un minuto, allora ne approfitto per rispondere a un messaggio che è arrivato adesso al 349-238-6666 che può interessare molte persone. Un ascoltatore scrive: ma in Italia dopo la triennale, sta parlando della facoltà di economia, tra magistrale, specialistica e master, cosa scegliere? Credo che la cosa migliore sarebbe che uno potesse avere intanto una esperienza di codilavoro, perché se potesse avere un'esperienza di codilavoro tornerebbe poi in formazione, come secondo me è bene che torni, con una preparazione aggiuntiva, cioè l'avvicinamento dei nostri studi universitari al mondo del lavoro e con stage e tirocini fatti durante gli studi e anche subito dopo diventa un fattore importante per crescere nella formazione, per comprendere meglio il valore e l'importanza di alcune scelte. Fra tutti, in ogni caso, di fronte a questa scelta, io continuerei con la laurea di specialistica e devo dire che la gran parte dei ragazzi che fanno economia, mi pare che attorno al 65%, proseguono su questo fronte. Ma se esistesse la possibilità di fare un'esperienza, di affondare in qualche modo la propria esperienza nel mondo del lavoro, io francamente dico prima lo farei. Se avessi un figlio suggerirei che facesse questa strada. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Grazie a Andrea Cammelli, direttore di Alma Laurea, per essere stato con noi. A presto, buon lavoro. Non siamo riusciti a sentire Luciano De Vico, ma insomma avrà modo di parlare tra non molto, dopo la pausa e il meteo, e risponderà anche alle vostre domande su detrazioni, sgravi fiscali, consigli di questo genere. Il numero 800 24 00 24 per le telefonate, per i messaggi 349 238 6666. Bentornati a Salva Danaio, puntata questa dedicata all'università. C'è una guida oggi con il Sole 24 Ore, ne dico, la gratuita per ragazzi e genitori che vogliono una bussola sulla scelta migliore, vogliono anche qualche consiglio per riuscire a risparmiare. Ecco, di questo, proprio di questo, di soldi e di risparmio, come è tradizione di Salva Danaio, parliamo con Luciano De Vico, dottore commercialista ed esperto in materia fiscale del Sole 24 Ore, che è ospite oggi insieme a Francesca Barbieri. Perché, dottor De Vico, sappiamo che ci sono degli sgravi previsti a favore di chi fa studiare i propri figli, due tipologie in particolare di sconti fiscali. Sì, infatti, gli sconti fiscali riguardano due tipologie, una prima legata alle spese, quelle strettamente inerenti allo studio e quindi per esempio le tasse e i contributi. Per queste spese che devono riguardare corsi di istruzione secondaria, universitaria, di specializzazione universitaria, vi è una detrazione dall'IRPEF nella misura pari al 19%. Qui non c'è un limite oltre il quale, un limite massimo di spesa. Però coloro che vanno a studiare in un'università privata, il limite massimo di spesa è costituito dalle tasse che vengono pagate agli istituti statali e quindi questo come limite massimo. E questo, diciamo, è un primo grosso calderone entro cui ci sono dei sensibili risparmi di imposta, ripeto, 19% sulle tasse e sui contributi. E poi c'è l'altro bonus, che è quello che riguarda invece le spese di sistemazione. Questo bonus invece è legato a una detrazione sempre nella misura del 19% che riguarda invece i canoni di locazione stipulati ai sensi della legge 431 del 1998, e quindi se ad esempio viene stipulato un contratto di locazione per l'uso di una stanza o di un appartamento o per l'affitto di un appartamento, si ha diritto a questo sconto fiscale. Il beneficio fiscale in questo secondo caso è esteso anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, così come agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Qui però ci sono dei limiti, e c'è un primo limite che è un limite di spesa, vale a dire che il 19% può essere calcolato su un importo massimo pari a 2.633 euro. E poi ci sono delle condizioni: per ottenere lo sconto fiscale occorre che l'università sia ubicata in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza e in ogni caso deve appartenere a una provincia diversa da quella in cui lo studente risiede. Noi approfondiremo questi aspetti nel corso della puntata, stanno arrivando le telefonate e gli sms, anzi ricordo il numero 800 24 0024 e il numero verde per le chiamate, quello per gli sms è il 349 238 6666. Ringrazio per la pazienza Piero da Trento, poi sentiremo anche Maurizio da Roma. Piero, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Pronto? Piero, la sentiamo forte e chiaro. Quello che volevo dire io era che nel percorso formativo di cui state parlando, appunto la specialistica oppure il master successivo sono condizioni ormai indispensabili per accedere con un certo successo al mercato di lavoro, lo dico come papà e come responsabile delle risorse umane di un'azienda. Quindi volevo sentire l'opinione di chi è intervenuto per vedere come poter pensare anche a nuove forme di sostegno per le famiglie che devono sospendere un master mediamente di una certa, come posso dire io, bontà ed efficienza, meno di 20.000 euro non costa. Ecco, mi scusi Piero, lei è responsabile di risorse umane di un'azienda, quindi insomma seleziona, no, le giovani risorse. Posso fare una domanda io? Cioè, cosa predilige, una specialistica, un master in particolare? Ma diciamo in termini cosa generali, la colpisce di un curriculum, ecco? Ecco, in termini generali e specificatamente per la nostra azienda che esporta il 95%, la conoscenza di almeno di più lingue, calcolando che oggigiorno voi mi insegnate che l'inglese non è più considerata una lingua straniera. La ringrazio molto Piero, tra poco sentiremo Maurizio da Roma che credo parlerà proprio di questo, però ecco Luciano De Vico prima una risposta al nostro ascoltatore: le agevolazioni e gli sgravi sono, riguardano i corsi di studio universitari ma riguardano poi anche le specializzazioni come i master. Sì, certo. Sul punto sui master universitari si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate in una circolare del 2000, la numero 101, che prevede espressamente come i costi per la frequentazione di master danno diritto a una detrazione d'imposta del 19%. Quando però, qui ci sono anche delle condizioni, per durata e per struttura dell'insegnamento, dice l'Agenzia delle Entrate, gli stessi siano assimilabili a corsi di specializzazione e sempre che siano gestiti ovviamente da istituti universitari pubblici e privati, cioè lo sconto deve rientrare nell'ambito della finalità della norma, quindi rientrano anche i master universitari, purché dicono le entrate, per durata e struttura degli insegnamenti siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazioni. Peraltro si sente tanto parlare anche di università telematica e di recente la stessa Agenzia delle Entrate ha sostenuto che anche le tasse e i contributi pagati a un'università telematica, purché riconosciuta con decreto del Ministero dell'Istruzione, danno diritto allo sconto fiscale. Allora sentiamo Maurizio da Roma, 824 0024. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Allora, volevo portare la testimonianza di mio figlio, il quale dopo la maturità voleva fare medicina, si è iscritto per sostenere l'esame di ammissione sia a università italiane che a università in Europa. Ha superato questo esame sia in Italia che in Scozia, ad Aberdeen. Abbiamo valutato quali fossero le posizioni a livello ranking mondiale dell'università italiana e dell'università di Aberdeen, scoprendo che quella di Aberdeen era al 100° posto, quella italiana 200 e qualcosa circa, ha scelto di andare su. Allora, prima cosa, risparmi. Ha chiesto il debito d'onore, perciò io non pago università. La pagherà lui dopo, se riuscirà a trovare lavoro guadagnando una certa cifra, allora la rimborserà lui, altrimenti l'università dice non sono stato in grado di fornirti una preparazione adeguata per cui non mi paghi. Questa è la prima cosa sconvolgente, ma la seconda ancora più importante che io noto, secondo me, il mio punto di vista, ma che io noto come differenza, è che nell'università italiana ci concentriamo sulla famiglia che deve supportare il ragazzo. Nell'università che frequenta mio figlio, tra parentesi, poi mio figlio, andando bene, ha vinto addirittura una borsa di studio, per cui l'anno scorso ha studiato per un anno in America. Anche qui allora, a costo zero? Ok. O quasi? Anche lì, no, a costo zero, pagavo spese di vitto e alloggio io, e l'assicurazione ovviamente, ma per il resto costo zero. E tanto per dire, era un'università dove la retta, sono andato a vederla, costava 22.000 dollari l'anno. Allora, poi la seconda cosa che volevo dire è che l'università italiana è concentrata sulla famiglia, cioè che deve supportare il ragazzo, là invece è concentrata sul ragazzo, l'essere che va all'università è il ragazzo, e perciò è il ragazzo che acquisisce il debito d'onore, è il ragazzo che vede tutto intorno a sé altri ragazzi che lavorano, perciò va a fare il cameriere, va a fare il babysitter, va a fare l'arbitro di pallanuoto. Chiarissimo, esempio, però è quello, cioè gli danno responsabilità. Grazie mille per questa testimonianza, Maurizio da Roma, peraltro molto utile. Arrivano anche messaggi al 349-238-6666 di persone che vogliono informazioni sull'università all'estero. Nicola Damiano dice: volevo sapere cosa ne pensate dell'università all'estero. Ecco, anche questo mi sembra un segnale di scoraggiamento, no? Questa tendenza comunque a voler partire a far studiare i propri figli fuori dall'Italia, insomma, non è un bel messaggio per il nostro paese in questo momento. Vero è che perlomeno un'esperienza all'estero, parlo di Erasmus, insomma qualche mese, ormai è assolutamente imprescindibile, Francesca Barbieri. Certo, senz'altro è importante, fondamentale poi per riuscire a trovare un lavoro. C'è da dire però che, come dire, anche in Italia qualcosa si sta muovendo, perché sono in crescita le università che stipulano accordi con università straniere per poter costruire dei percorsi di studio che prevedono dei periodi in Italia e dei periodi all'estero. È una tendenza in atto da qualche anno. Possiamo dire che se nel 2010 erano 38 gli atenei che avevano nella propria offerta formativa facoltà che rilasciavano un double degree, cioè un titolo di studio riconosciuto in Italia ma anche in un paese straniero, per il prossimo anno accademico saranno 45, per un totale di 304 corsi, soprattutto nelle facoltà di ingegneria ed economia. Sono percorsi impegnativi, questo va detto subito, quindi ragazzi intenzionati a scegliere questa strada devono mettere in conto che comunque l'impegno è tanto, ci sono dei periodi di studio all'estero, ci sono anche delle borse di studio che vengono offerte dall'Unione Europea, però anche in questo caso bisogna dire che comunque la concorrenza è tanta, le borse sono poche, per cui le famiglie devono tener conto che comunque c'è un investimento economico da sostenere. Però senz'altro questi titoli di studio consentono ai ragazzi poi di trovare più facilmente lavoro. Ce l'ha confermato poco fa anche il nostro responsabile risorse umane. Dottor De Vico, una domanda veloce prima di sentire le informazioni sul traffico. Antonella ci scrive: le detrazioni valgono anche per iscrizioni e spese all'estero? Sì, le detrazioni valgono anche per quelle, peraltro si segnala una recente sentenza anche della Corte UE, della Corte di Giustizia, che ha previsto la detrazione fiscale, che ha stabilito che la detrazione fiscale debba sussistere anche presso atenei privati all'estero. La spesa prevista però, il limite massimo, e questo è bene ribadirlo, è sempre inerente all'università italiana pubblica, e quindi occorre rifarsi alle spese massime. Cioè c'è quel tetto, ecco. Esatto, come tetto massimo occorre rifarsi alle tasse e contributi che vengono pagati all'università pubblica. Occorre quindi prendere la facoltà pubblica più simile a quella italiana, nel caso in cui sia università privata italiana, e conteggiare quello come limite massimo entro cui detrarre la spesa del 19%. Di nuovo insieme per questa puntata dedicata all'università, con me c'è Francesca Barbieri del Sole 24 Ore, Luciano Di Vico, dottore commercialista ed esperto in materia fiscale. Per lei ho la domanda che ci ha scritto via sms Umberto, dottor De Vico. Lui dice: ho una laurea in chimica farmaceutica, due master, e sono iscritto alla seconda laurea in sociologia. Sono un professionista, sono sposato con figlio a carico. Pur avendo reddito medio alto, posso avere una qualche agevolazione? Sì, le spese il 19% sulle tasse e sui contributi pagati per l'università per l'iscrizione all'università, naturalmente, come tutti gli altri contribuenti. Noi adesso abbiamo detto fino a questo momento che queste spese sono detraibili in capo ai genitori, ma in primo luogo sono detraibili in capo al soggetto che le sostiene, e quindi chi sostiene spese di frequenza relative a corsi universitari evidentemente può detrarre il 19%, sempre con i limiti che abbiamo più volte ricordato. Ovviamente poi, se invece lo studente fosse a carico dei genitori, la ripartizione dell'onere avverrà sulla base delle regole che valgono per tutti gli oneri detraibili, e cioè, giusto per chiudere l'argomento, se la spesa è intestata al figlio nella misura del 50% tra i genitori, ovvero è possibile annotare sul documento di spesa una percentuale diversa, ad esempio 100% ad un genitore solo, ma lo ripeto, chi sostiene delle spese per proprio conto ha diritto allo stesso sconto fiscale, nella stessa misura. Parliamo di affitti, grazie alla domanda che ci fa Loreno da Grosseto, che scrive: ma uno studente in contratto di affitto cosiddetto libero lo può detrarre? La norma parla di contratto stipulato ai sensi della legge 431 del 1998, e il contratto libero nel senso che se l'ascoltatore si riferisce ai contratti, non ai contratti 4+4, ma ai contratti stipulati per gli studenti universitari, naturalmente la risposta è affermativa, purché stipulati ovviamente ai sensi della legge 431 del 1998, fermo restando ovviamente anche gli altri requisiti, e fermo restando il limite massimo di 2.633 euro su cui calcolare lo sconto fiscale. L'Agenzia delle Entrate, ad esempio, in alcuni casi, mi riferisco a quello che l'ascoltatore precedente ha mandato il figlio a studiare all'estero, per esempio, che non sono detraibili invece i canoni per spese di locazione pagate all'estero, così come non sono detraibili, e questo lo ha precisato di recente anche la stessa Agenzia delle Entrate, i canoni derivanti da contratti di subaffitto. Ma i canoni stipulati ai sensi i canoni pagati in relazione ai contratti stipulati ai sensi della 431-98 danno tutti il diritto all'agevolazione fiscale. Andiamo da Carla da Torino, all'824-0024. Carla, buongiorno. Buongiorno, proprio ora l'esperto ha puntualizzato che gli affitti degli studenti all'estero non sono detraibili. Io volevo appunto che fosse rimarcato questo fatto, che io invece non ho capito con molto ritardo, insomma, non che questo cambi qualcosa, ma io pensavo sinceramente, avevo fatto tutte le procedure per detrarre questo, e in sede di dichiarazione dei redditi ho posto anche dei quesiti, e il vostro esperto conferma che non è possibile detrarre i canoni di affitto all'estero. Quindi uno dimanda a studiare all'estero, se sono bravissimi e la famiglia è agiata non può comunque partecipare alle borse di studio, perché bisogna sempre presentare l'ISEE. Mio figlio era arrivato quinto nel ranking europeo e ci hanno detto che siamo troppo ricchi perché mio marito è medico e ha un reddito denunciato, e quindi insomma vorrei dire che ci sono anche delle ingiustizie, insomma, ecco. La ringrazio, Carla. Dottor De Vico, lei ha potuto ingiustizia questa? La norma è scritta in questo senso, è tanto vero che l'Agenzia delle Entrate, nella risposta che è contenuta nella circolare numero 18 di 2 anni fa, del 2009, ha stabilito proprio questo. L'Agenzia delle Entrate non poteva che prendere atto della formulazione letterale della norma, che fa riferimento appunto alla legge 431 del 98, e per concludere che se l'immobile è situato all'estero viene esclusa la detraibilità, in quanto il contratto non può che essere stipulato in base a una normativa propria di altri ordinamenti. E quindi ci vorrebbe a questo punto non un'interpretazione estensiva da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ovviamente ha le mani legate, ma una modifica normativa evidentemente sul punto specifico. Va bene, grazie. Francesca Barbieri. Sì, io volevo semplicemente ricordare che oltre al dossier che è uscito oggi in edicola sull'università, abbiamo anche un ampio dossier online che è consultabile al sito www.ilsole24ore.com/uni, dove c'è proprio la possibilità di come dire, scaricarsi tutti i corsi organizzati dalle università italiane che sono riconosciuti anche all'estero, che quindi prevedono il double degree, e c'è anche l'indicazione ovviamente dei corsi interamente in lingua inglese. Ovviamente all'interno di questo dossier online ci sono tutta un'altra serie di informazioni, a partire dall'elenco completo dei corsi organizzati alle università italiane, facoltà per facoltà, e altre indicazioni utili per i ragazzi che devono scegliere appunto il corso per il prossimo anno. Benissimo, sempre via SMS Maria Franca da Genova ci scrive: potete spiegare come si ottiene il debito d'onore di cui ci parlava il nostro ascoltatore, che ha il figlio che studia all'estero appunto attraverso il debito d'onore? È un meccanismo che consente agli studenti di pagarsi gli studi con un contributo da restituire con il futuro lavoro, quindi a partire da fine corso. Tra l'altro negli ultimi anni sono molto aumentate le richieste di questi prestiti di onore, e quindi si può chiedere alla propria università, ci si fa riferimento alla propria università che dà tutte le informazioni per quanto riguarda questa possibilità. Andiamo a Roma da Carlo, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Per avermi dato questa possibilità. Sì, veloce, cortesemente, perché purtroppo siamo in chiusura. Sì, io chiedevo soltanto se ho un figlio che sta facendo una scuola professionale di 3 anni di restauro affreschi. Parlando con il titolare mi diceva che poteva detrarre, diciamo, una quota parte delle spese sostenute. Da quello che ho capito e che diceva l'esperto, la detrazione spetta se un corso è a livello universitario. Il titolare della scuola mi dice che il suo corso è a livello universitario, però per non avere sorprese cosa devo fare? Cioè, qual è la non vorrei appunto presentare detrazioni che non mi spettano poi. Luciano De Vico, come saperlo prima? Scaricare evidentemente da internet o se è disponibile, altrimenti farsi rilasciare una specie di attestazione da parte del soggetto, da parte del rappresentante legale dell'università, in cui si dichiara che questo corso è un corso di istruzione universitaria. È sufficiente che sia un corso di istruzione universitaria, oppure per esempio leggendo lo statuto, leggendo il regolamento interno, e la norma fiscale non può che in questo caso richiamare quella civilistica. E quindi se il corso è un corso di istruzione universitaria o di specializzazione universitaria, varrà la detrazione. Naturalmente vale la detrazione, altrimenti no. E quindi un'attestazione in tal senso potrebbe risolvere il problema. Grazie Luciano De Vico, autore commercialista, esperto del Sole 24 Ore. Buon lavoro, a presto. Grazie, buongiorno a tutti. E grazie Francesca Barbieri, collega del Quotidiano. Trovate la guida del Sole 24 Ore gratuita oggi in edicola con il Quotidiano. Al sito ilsole24ore.it/uni, come detto poco fa, trovate tutti i corsi di laurea attivati nell'anno accademico 2011-2012. Io ringrazio Marco Lombardo e Gaia Romani in redazione, Pietro Lacorte in regia. Ringrazio voi per l'ascolto. Salva Danaio torna domani alla stessa ora. Adesso GR24. Una buona giornata da Roberta Pellegatta. Salva Danaio.